Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso, continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Anche per me il treno va, continua a andare, andrà sempre, finché non scenderò, ma poi risalirò. Questo è il momento fatale in cui la gente va a mangiare. Non tutti vanno a mangiare alla stessa ora, ci sono quelli che accettano di compilare l'apposita lista e hanno già il menù pronto e si avviano verso il vagone ristorante. Già il profumino d'arrosto riscaldato ha invaso tutto il mio scompartimento, ma già avevano le mie narici assaporato tutto il frittatume, l'affettato, il panino che già arrivava dal treno che veniva da Salerno e che io ho preso in corsa a Roma. Quindi, per corroborarmi le pupille, le narici e per seguire la folla transumante verso il vagone ristorante, non faccio niente di meglio che seguire una ragazza che si è appena alzata e immagino che andrà a mangiare. Vorrò vedere cosa sceglierà del fantastico menù mediterraneo che viene offerto questa giornata. Si ricorda ai signori passeggeri che nella carrozza 8 è attivo il servizio di ristorazione. Carina, ben vestita, acqua e sapone, delusa, l'ho visto, delusa dal fatto che probabilmente quello che le hanno offerto nello spuntino o nel dessert che viene offerto ai viaggiatori di prima classe, c'è qualcosa che lei, non so per quale ragione, non riesce a tollerare. C'era una sorta di macedonietta fatta di fruttine tagliate a pezzetti, c'era un pezzetto di pesca, un pezzetto di mela e alcune rondelle di kiwi. Quando ha visto le rondelle di kiwi, non so perché, ha fatto una smorfia, quasi ne fosse profondamente disgustata. Poi ho capito perché. Stavo fino a poco tempo fa con un ragazzo che aveva una fissazione alimentare che era diventata un vero e proprio problema per me. Tutto è cominciato con una sua lunga influenza durante l'inverno, dalla quale non guariva, ha fatto delle ricerche su internet da solo. Mi ha trovato una dieta miracolosa del kiwi. Ha scoperto che il kiwi protegge da tutte le malattie, ha cominciato a nutrirsi praticamente unicamente di kiwi. Oggi agli uomini va benissimo, non c'è mai stata una fase dell'evoluzione umana in cui ci fossero tante donne fantastiche disponibili per tanti pochi uomini ancora su piazza. Le donne sono abituate a tutto, mandano giù tutto. Sono abituate a essere tradite con altre donne, essere tradite con altri uomini, essere tradite con un'infinità di passioni. Probabilmente per questa infelice ragazza si va ancora oltre. È stata tradita dal kiwi. Fra le tante possibili parafilie c'è quella della passione per il kiwi. Quest'uomo ha allucinato nel kiwi l'oggetto più alto e più sublime della propria passione. Vive soltanto per l'amore per il kiwi. Ogni volta a fare la spesa c'era il carrello pieno di kiwi. Tutti gli amici che venivano a casa nostra dovevano sorbirsi tutta la lezione sul perché e il per come il kiwi fosse il frutto dei miracoli. Se andavamo al ristorante, controllava che nel menù della frutta fosse previsto il kiwi. Abbiamo fatto un weekend romantico a Parigi e lui in valigia si è messo i kiwi. Una volta siamo usciti la sera a cena e ho notato che aveva un bozzo nella tasca dei pantaloni e si era portato il kiwi da casa perché non era sicuro di trovarlo durante la serata. No, lì veramente non ce l'ho più fatta, non ce l'ho fatta più. Ho esaurito la pazienza. Abbiamo fatto una super litigata e poi chiuso. Ahimè, quale profonda e insanabile delusione aver scorto quel rigonfiamento nel pantalone del proprio ragazzo aver avuto soltanto per un attimo l'illusione che potesse appartenere a un ritorno di passione, a un lampo improvviso di desiderio per lei. Invece no, sempre lui, l'innominabile oggetto della sua perversione che gli gonfia la tasca. Era soltanto un kiwi. Poi quando la storia è finita, comunque, insomma, io poi ci tenevo a lui, mi sono messa anche a fare delle ricerche su queste presunte proprietà miracolose del kiwi, e tra le varie ho visto che, appunto, secondo questi seguaci della dieta kiwi, migliorerebbe l'impotenza sessuale, sarebbe un potente antidoto. E lì, insomma, mi si sono spiegate molte cose. Alla fine si alza e si allontana sconsolata. Per lei è arrivata la stazione d'arrivo. Chissà dove andrà, chissà chi incontrerà, chissà se riuscirà mai a cancellarsi dal cuore l'ossessione del ragazzo ossessionato dal kiwi. Che interesse avrebbe una scogliera, una foresta, un rudere, se non vi fosse implicata un'attesa? E attesa di che, se non di lei, della creatura che potrebbe farci felici? Che senso avrebbe la valle romantica tutta rupi e scorci misteriosi se il pensiero non potesse condurci a lei? Oh, che parole romantiche! Che senso ha un paesaggio se non si ha una persona nel cuore con cui condividerla? Pensate, questi pensieri illuminati e immensi sono i pensieri di un puttaniere inveterato. È l'architetto Antonio Dorigo, il protagonista di Un amore di Dino Buzzati, autore che amo tantissimo, che viveva arroccato nella sua fortezza bastianica, era via Solferino, e i tartari erano i suoi colleghi del Corriere della Sera. Qualcosa di simile mi è accaduto nella mia lunga vita professionale e probabilmente ancora mi accadrà. Beh, l'architetto Dorigo era un puttaniere inveterato perché andava soltanto con prostitute. Aveva un concetto così terrificato della presenza femminile che lui le donne le pagava. E come sempre accade alle persone che pensano di superare la dipendenza dalla femmina pagandola, si innamora di una di queste, di Laide. E Laide lo ridurrà a uno straccetto e si consumerà in questo amore eterno per una donna che lo prende in giro. Però continuerà a pensare, a suggerirci quanto il paesaggio possa essere significativo se si pensa di poterlo vedere, godere e percorrere con una persona al fianco che ci guarda, con cui incrociamo lo sguardo, ma il cui sguardo non sapremo mai esattamente cosa nasconde nel suo più profondo abisso. Che senso la muraglia degli antichi faraoni se nell'ombra dello Speco non potessimo fantasticare di un incontro? E l'angolo del borgo Fiammingo, che ci potrebbe importare? O il caffè del Boulevard o il succo di Damasco, se non si potesse supporre che anche lei un giorno vi passerà, impigliandovi un lembo di vita? So già che dovrei dare delle spiegazioni. A quanti si chiedono, a quanti mi chiedono chi sia la misteriosa donna di cui spesso si parla mentre il treno va. Non è mia madre, non è mia moglie, non è mia possibile amante, figuriamoci, non è nemmeno una mia amica, non è nemmeno una donna che io conosco. Per adesso vi basti sapere che è una donna che aspetta, come sempre aspetta ogni donna, alla fine di ogni binario. Pensò alla finestra solitaria illuminata nella sera d'inverno, alla spiaggia sotto le rocce bianche nella gloria del sole, al vicolo inquietante e sghembo nel cuore della vecchia città, ai fienili, al lume della luna. Pensò ai cimiteri d'inverno, alle biblioteche, ai caminetti accesi, ai palcoscenici dei teatri deserti, al barlume dell'alba. Dovunque c'era nascosto il pensiero inconfessato di lei, anche se non sapevamo neppure chi fosse. Desire make foolish people do. Treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Parlavamo di una donna che aspetta. Le donne aspettano. Le donne sanno perfettamente quanto facciano paura agli uomini. C'è un'antica leggenda marinara per cui le donne, quando il mare era in tempesta e i loro uomini erano al largo e rischiavano la vita per pescare, si mettevano tutte sulla riva del mare e alzavano le gonne e mostravano la loro natura e flutti arrabbiati che improvvisamente si placavano. La forza della natura femminile la conosce bene sicuramente il signore che mi sta accanto. Dalla sua valigetta capisco, intuisco che è un medico, ma è un medico molto particolare. È un medico che sicuramente si intende di donne. Gente di mare, posso tossire? C'è un medico vicino, si renderà conto che il mio stato di salute è cagionevole. Buongiorno. Capiano, questa è anche la stagione che si tossisce. Ma non dimentichi che io sì sono un medico, ma sono un ginecologo. Però il campo d'azione è limitato. Però mica si vede addosso che è un ginecologo, non so, non è che ha dei segni distintivi il ginecologo. No. Ma lei quando viaggia in treno, come adesso, qualcuno le domanda che mestiere fa, perché la prima domanda, cosa fa, di cosa si occupa, lo dice che è ginecologo. Allora le dico che cosa faccio io quando vado in treno. Il mio desiderio è quello di stare tranquillo, di non essere disturbato. Perciò spengo il telefono per prima cosa, prendo il libro che mi sono preparato e comincio a leggere. Se c'è qualcuno nello scompartimento, in genere c'è un momento in cui nessuno parla, ma poi cominciano gli scambi di domande. Lei dove va, quando scende, quanto tempo manca, siamo in orario, eccetera, e poi si passa alle conversazioni e io rimango in silenzio fino a quando qualcuno mi chiede scusi, lei, vedo che sta leggendo, non so, un libro qualunque, che lavoro fa? E io lo guardo fisso e dico, io sono un magistrato. In questo momento si crea il gelo nello scompartimento. A tutti non temono, hanno tutti uno scheletro nell'armadio. Esatto, quindi hanno paura che dicendo qualcosa il magistrato possa fare delle deduzioni. Oppure un'altra risposta è, sono un poliziotto, sono della polizia. Anche qui il gelo completamente, nessuno parla più dei fatti suoi soprattutto. Ma lei è una sociale oppure semplicemente non vuole essere scocciato? No, io mi diverto, cioè, non è che sono una sociale, sono un antropologo, mi piace constatare le reazioni della gente. Ma se capitasse che nello scompartimento c'è un altro poliziotto e dice ciao collega? Questo non mi è mai capitato, ma se mi capitasse direi non posso dirti nulla perché sono sotto copertura. Ma non sarebbe più semplice dire faccio il ginecologo? C'è qualcosa di vergognoso in questa professione? No, no, no, no, no, no, semplicemente siccome io lo faccio tutti i giorni 24 ore su 24. Pensi, una cosa che male sarà venuta veramente. Me ne immagino. E allora, se io dicessi sono problemi. Che sono un ginecologo, succederebbe che qualcuna delle donne presenti, timidamente prima, spacciatamente dopo, si tolga le mutande, comincerà, no? Ma sì, è successo anche questo. No, non è possibile, questo sta dicendo. Perché no? Perché c'è una signora, perché si è tolta le mutande, mi visiti. Una signora mi ha fatto vedere un problema e per farmelo vedere ha dovuto denudarsi. Ma questo dentro il treno, no? Questo particolare è... Sì, in uno scompartimento sì, di prima classe, era una donna abbastanza giovane, poteva avere sui 35 anni. Ma le racconto un'altra cosa. E le ha mostrato, diciamo... Sì, la parte. La parte. Che ho stata, sì, l'ho constatato, le ho dato dei consigli e poi tutto è tornato. Cioè, ma lei era dotato dei suoi attrezzi? Perché la parte non è che poi... No, così... no, era una cosa esterna. Ah, una cosa esterna. E quindi mi ha mostrato soltanto la parte più esterna della la parte colpita dal morbo. Sì, da questo, sì. E poi c'è un altro episodio. Ma ha discostato la biancheria? No, perché veramente mi sembra una cosa... No, ha tolto proprio la biancheria. E c'erano altre persone dentro lo scompartimento? No, non c'era nessuno, no, ovviamente. Ma era una chiara provocazione, no. Dottore, lo capisce? No, non credo, no, perché la lesione c'era ed era anche una lesione che impediva qualunque desiderio, quindi... Ah, era devastata in maniera orribile? No, devastata, pericolosa più che altro, ecco, perché era una cosa infettiva e quindi... Lei non lo sapeva e io gliel'ho spiegato e poi da questo poi è sorta una discussione perché non sapeva a chi attribuire il regalo e quindi è venuta fuori una storia di questo genere. Quindi una cresta di gallo molto visibile. Esatto, sì, bravo. Sai, non ci vuole molta fantasia. Un condiloma aveva. Ecco, e lei l'ha mostrato il condiloma nello scomparimento. I condilomi. Comunque in ogni caso il problema poi è nato... A chi attribuire, diciamo, l'infezione? Sì, perché poi c'è stata un'inchiesta con date e varie cose. Poverina alla fine piangeva perché insomma, non è stata una cosa divertente. Aveva capito che era l'uomo che amava, che gli aveva lasciato questo regalo. Può darsi. E una cosa divertente invece è stata una volta che io ero in uno scompartimento ed ero solo e di fronte a me era seduta una bellissima donna, una brasiliana. Che aveva un amico molto corta, proprio mini, e a un certo punto, guardandomi, ha cominciato ad allargare le gambe. E a un certo punto. Per lei, figuriamoci, è il pane quotidiano, non le fa nessuno. E non le ha detto, signora, si fermi, perché mi fa lei? Perché se allarga ancora un po', mi deve pagare, perché io la guardo solo a pagamento. E allora si è messa a ridere, abbiamo fatto poi una simpatica conversazione, era una che cercava. Un cliente arrabattarsi quel giorno, ecco. Vabbè. E aveva scelto me forse in base a come ero vestito, era lussuosamente vestito, quindi aveva disponibilità economica. Io di solito messo in maniera modesta e comoda quando viaggio, quindi non, diciamo un paio di jeans, un giubbotto con nessuno mai l'ha capito stato... Però guardando dice lei è un ginecologo, no? Nessuno l'ha potuto indovinare, no. Anche perché io somiglio a Freud. C'ho questo. Forse pensano a Babbo Natale, magari, non lo so. Sì, bravo, quello me l'ha detto un bambino, l'ha detto alla mamma. Mamma dice, guarda, Babbo Natale arriva in anticipo, se è stato recentemente. E le posso dire un'altra cosa che io dico spesso, quando proprio non voglio che la gente mi parli, che non mi disturbi, proprio anche perché ho dei pensieri per conto mio. Allora, se la gente mi chiede, dice, ma lei cosa dico? Io, guardi, io sono appena uscito da un ospedale psichiatrico, dove sono stato ricoverato per un anno. Quindi fa il matto. Sì, basta, finito. Oppure dico, sono appena uscito dalla galera, e questo ancora peggio, perché a questo punto c'è qualcuno che si alza e se ne va. Pensi un po' alla discriminazione. Mi dispiace molto. No, io sto pensando, chi ci ascolta in questo momento, dottore, potrei venirgli la tentazione di dire al contrario, faccio il ginecologo, visto che quello che le accade a lei in scompartimento. Io l'ho detto un paio di volte, ed è stato un disastro, perché la conversazione si è svolta solo ed esclusivamente su argomenti di ginecologia. Beh, ci sono uomini che ci vanno a nozze però di queste cose. Sì, certo, soprattutto perché ne vede a tonnellate ogni giorno, ma c'è chi non la vede mai. Facevano la domanda dell'uomo, era sempre fatta per un altro, cioè io mi chiedevano a nome di qualcun altro problemi molto scabrosi. Una mia amica c'ha questo problema. Esatto, sempre così, sempre, quando era ovvio che il problema ce l'aveva la persona che mi interrogava. Quindi quando si viaggia c'è una sincerità di fondo, una sincerità spontanea, ma c'è anche un'ipocrisia diffusa. C'è anche chi si inventa completamente, sono dei mitomani, ho incontrato dei mitomani che si inventavano completamente perché volevano far colpo su una ragazza presente, e io l'ho capito subito, perché sai, il medico col passare degli anni, anche se non lo vuole, diventa psicologo. Certo, l'occhio clinico non tradisce. Io faccio un mestiere dal quale ogni tanto devo staccare, e stacco, e quando stacco non ne voglio proprio sapere. Lo so, lei capisca, però il resto dell'umanità maschile, che a me ha il problema inverso molte volte, lo so, ci andrebbe a nozze. Sono arrivato, è un grande piacere, continuerei oltre la mia stazione, ma mi impone di scendere. È stato un piacere per me. Buon viaggio. Spero di reincontrarla su questa stessa linea. Anch'io spero, ma mi lanterò di fare il suo mestiere per vedere quel che succede. A presto. Bien avant qu'on se soit parlé, bien avant que j'étais venue, je savais déjà que je t'en voudrais. Bien avant qu'on se soit déçu, bien avant qu'on soit des déchets, bien avant ce goût de déjà vu, je savais déjà qu'on y resterait. Que personne ne sortira d'ici, que personne ne retiendra la nuit, qu'on ira pas tout pour ce paradis, bien avant l'heure de la ciguë, bien avant l'heure des heures indues, bien avant qu'on s'aime. Bien avant qu'on soit dévendu, bien avant que je t'ai renié, je savais déjà qu'on était vaincu. Et bien avant qu'on se soit cogné, bien avant qu'on ait du vécu, bien avant que tu te fasses soigner, je savais déjà qu'on était perdu. Bien avant l'écoute de ma su, je déjà tout ce que je sais. Bien avant qu'on soit dépendu, bien avant qu'on soit des regrets, bien avant que tout soit fichu, je savais déjà que tu t'en foutais. Il treno va. Tra la varia e variegata popolazione della 21esima regione d'Italia, composta dai viaggiatori in treno, la stirpe dei pendolari è un posto a parte. Sono quelli per cui il treno è la loro vita, è la loro giornata, è il loro quotidiano, è la loro mensa, è il loro dormitorio, è il loro soggiorno, è il loro luogo di incontro. Infatti, scopri subito il segno inequivocabile della pendolare nella ragazza che mi stava accanto. È praticamente una seconda vita il treno per un pendolare. È una parte importantissima della giornata. Cioè poi quando uno torna a casa gli manca tutta un'esistenza fatta di persone che comunque vengono dalle parti più svariate del mondo, sì. E quindi non appartengono a nessun luogo. Esatto, inappartenenti che non hanno nessun vincolo né di parentela né di socialità con noi, però con i quali ci ritroviamo a condividere più o meno ore della nostra giornata, della nostra vita. Invece incontri fantastici ce ne sono mai stati? Un incontro del quale conservo ancora un bigliettino da visita, un incontro che feci non sul regionale che prendevo tutti i giorni, ma sull'allora chiamato pendolino che andava da Cremona a Roma, e incontrai una famiglia di orientali, molto molto orientali, estremo oriente, una famiglia che viaggiavano dalla parte opposta del corridoio rispetto a me. Io stavo assolutamente facendo i fatti miei, stavo ripassando il cliente di turno che sarei andata a visitare, e a un certo punto il padre si sporge verso di me e mi dice in inglese che la figlia avrebbe avuto piacere a farmi una fotografia, per cui lì sul momento io mi sono trattenuta dallo scoppiare a ridere, perché avevo capito che la figlia mi aveva classificata come una attrazione italiana da riportare poi in Estremo Oriente, proprio il classico cliché degli orientali che fotografano qualsiasi cosa incontrano di interessante o anche di non interessante, dato che fotografano molto, e la figlia aveva voluto fare una fotografia a me. Quando la mattina si sale in ferrovia, in ogni scompartimento, su ogni sedile, c'è sempre una rivista. Una rivista che pochi sfogliano, pochi guardano, molti lasciano lì appassire sul sedile, poi la tengono nelle mani, poi la ammassano ai loro giornali vecchi e a sera probabilmente finisce nella raccolta differenziata della carta. Se qualche volta mi prendo la preoccupazione e la briga di aprire e sfogliare questa rivista, in cui vendono comunque dei prodotti. Vendono valigie, vendono prodotti o perlomeno offrono prodotti probabilmente utili ai viaggiatori. Guardare queste riviste mi porta immediatamente alla mente il più arcaico dei ricordi legato all'immarcescibile e impossibile catalogo delle delizie che la Postal Market mandava nelle case di ogni italiano. Nel fiore dell'adolescenza, un sommo tentatore alla lussuria fu il catalogo della Postal Market. Il catalogo Postal Market fu l'organo immarcescibile della vendita per corrispondenza all'americana che seguì ogni famiglia italiana dalla fine degli anni 50 alla fine degli anni 90. Qui si descriveva ogni abito o capo di biancheria come realizzato in caldo e morbido poliestere al 100%. Si sfogliava per mesi interi, guardando, valutando, facendo confronti, ma poche volte si ordinava qualcosa. La diffidenza delle generazioni uscite dalla guerra considerava un insulto alla miseria acquistare senza poter toccare la merce. La sezione più logorata dalle consultazioni era quella della biancheria femminile. Non è che si vedesse molto, tranquille signore in mutande e reggiseno corazzato, busto contenitivo, guaine, gambaletto elastico, ma era comunque supporto valido ad attività autoerotica, soprattutto negli anni in cui non c'era assolutamente altro per ispirarsi nell'autosollecitazione dell'età dei brufoli. Tutti i ragazzi degli anni 50 hanno memoria del batticuore di quando si girava la chiave del bagno e ci si trovava soli con il catalogo Postal Market. Non era nemmeno necessario nasconderlo, come una generazione dopo era costretta a fare con Iacula e Messalina, infrattati dietro ai radiatori del termosifone, sopra lo scaldabagno, dovunque fosse possibile farlo. L'aspetto positivo del catalogo per le famiglie era che nessuno faceva caso se restava appoggiato per settimane o addirittura mesi sul cestone della biancheria sporca, assieme alla settimana enigmistica, Topolino, Lancio Story. Era alla fine una rivista per mamme, nessuno ne sottolineava l'uso improprio che ne facevano i figli e forse anche qualche padre. Ai miei ricordi di innocenti e lontane e tiepide lussurie adolescenziali mi portano verso lo scompartimento accanto, dove c'è la tipica compagnia dei bravi ragazzi. Vanno probabilmente a un pellegrinaggio, oppure magari, non lo so, vanno semplicemente a fare una scampagnata. E per passare il tempo, con la chitarra in mano, canta. Facciamo il canto numero 35 alla pagina 27. Dio, amico mio. Dio, io cerco Dio, l'amico mio, che mi vuol bene, come nel cuore una canzone, che ci sorride, come una pecora nobile. Forza, dammi la mano, andremo lontano io e te. O luce divina, aiutami tu, perché davvero non ne posso proprio più. È una vita che non faccio l'amore e ho la parte che comincia a farmi male. Io guardo la TV dopo il canale 800 e così solo per te io m'accontento, ma poi per fortuna c'è il confessionale, tutti al numero 3. Don Faustino assolve proprio tutti i peccati, anche la colpa di mano, quindi assolve anche me. Insieme, Dio, io cerco Dio, l'amico mio, che mi vuol bene, come nel cuore una canzone, che ci sorride, come una pecora nobile. Forza, dammi la mano, andremo lontano, io e te. O luce divina, aiutami tu, perché davvero non ne posso proprio più. Perdonami, oh Dio, so che lo farai, anche se ho fatto tanto sesso e tu lo sai. E l'ho infilato per lussuria nel cassetto e ho fatto centro proprio dentro al giornaletto. Ma ora sono stanco di espiare, di peccare e poi ancora espiare. E scusami, oh Signore, ma per questa ragione ho deciso, cambio religione. Si ricorda ai signori viaggiatori che non è consentito l'uso promiscuo dei servizi igienici durante il transito in galleria. Seguendo i rimorsi, i tormenti e i turbamenti dei bravi ragazzi, non posso che riportare la mente al catalogo della Postal Market. Fu inventato nel 59 da Anna Bonomi Bolchini, la signora della finanza italiana, una delle più importanti imprenditrici italiane che contribuì in maniera essenziale alla rinascita del nostro paese negli anni 50. Fu lei che fece il Pirellone e fu lei che si inventò il catalogo Postal Market. Lo importò in Italia nel 59 ispirandosi alle vendite per corrispondenza americane che da noi non esistevano. Grazie al catalogo Postal Market anche nelle più lontane, riposte e sconosciute contrade del nostro paese le signore potevano acquistare i prodotti che vedevano reclamizzati in televisione e che magari nel negozio sotto casa non esistevano. Beh, avrebbe mai immaginato questa imprenditrice che il frutto più geniale della sua attività, il catalogo del Postal Market, sarebbe passato alla storia come supporto per attività autoerotica. Il 1999 rappresentò il canto del cigno del catalogo Postal Market. I prodotti si svecchiarono e si notò subito un tentativo deciso di andare incontro alla mutazione delle costumanze erotiche della domestica famiglia italica. Quel numero innovativo del catalogo inaugurò una sezione che mai prima osò farne parte. Oltre ai défilé di biancheria femminile decisamente porcacciona, il catalogo includeva un campionario di oggettini che rompevano il muro di omertà sui suoi possibili usi di succedaneo erotico. In un paio di paginette venivano offerti nell'ordine. Un pacco famiglia di preservativi anonimi e senza marca, venduti a stock in un numero impressionante per giustificare il basso prezzo. Un vibratore, di vecchia generazione già allora, spacciato con la classica iconografia di signora che se lo strofina beata sotto il mento così da accreditare di nuovo la vecchia scusa che fosse venduto per massaggiare il viso. E delle manette guarnite di peluche rosa, nero, leopardato, denominate come manette dell'amore, che facevano pandan con il ponte dell'amore, un tristissimo oggetto che sprizzava micragna anziché erotismo. In pratica una semplice traversina di gomma piuma incerata, di quelle che in certi cataloghi avranno venduto come presidio sanitario per adulti incontinenti. Nell'illustrazione si spiegava che serviva per trasformare in letto matrimoniale due lettini singoli appaiati. Fu il canto del cigno del vecchio, caro catalogo postal market, umile e laborioso catalizzatore dei desideri di una famiglia, dal set di pentole della madre, dal doccino per lavarsi l'auto alla fontanella pubblica del padre, un equilibrio tra sobrietà e immodestia che tracollò con l'entrata clamorosa di sulfurei articoli da porno shop nella già ricca fonte di ispirazione di erotismi subliminali ed in fondo tollerati. Make no mistake, I don't do anything for free. I keep my enemies closer than my mirror ever gets to me. And if you think that there is shelter in this attitude, where do you feel the warmth of my gratitude? Dimension. They'll tell it that this ain't no free for all to see. There's only three. It's just you and me against me. I get the feeling that it's two against one. I'm already fighting me, so what's another one? The mirror is a trigger and your mouth's a gun. Lucky for me, I'm not the only one. Lucky for me, I'm not the only one. Il treno va. Ogni tanto viene ricordata una casella di posta elettronica. Il treno va, @radio24.it. Non lo facciamo così tanto per farlo, tanto per riempire lo spazio, perché questa casella diventa il tramite essenziale fra chi vuole fare un viaggio in treno con me e ci ascolta. E viaggiare in treno con me non significa necessariamente sedersi accanto nello scompartimento e parlare. Si può parlare anche a distanza. Qualcuno già l'ha fatto e qualcuno ancora lo farà. Lo ha fatto questa donna che mi racconta, non so perché proprio a me, la peggiore delle persone, il più scriteriato dei consiglieri,